buonasera a tutti. Ho preso un freddo, Antonello. Sì, ieri ho preso un bel freddo e oggi mi sento poco bene, quindi sono entrato per un saluto e buono. Mi sento come tipo infreddatura, a meno che non sia il corona. Speriamo, così finalmente ho finito di soffrire, così almeno non mi sento più. Mi prende. Cos'è questa storia, Marco? Aspetta, cos'è questa storia che vuoi morire? Ma vai, se mi scappa dalla risa. Però già lo sai, per non avere più quella freddura che hai preso, bisogna andare dall'asino della cruca, a partire dalla supposta. E poi c'è quel rimedio universale, la supposta di mio duro, eccetera. Mia compagna già la conosce bene, vero Antonè? Sì, sicuro. No, se volete vi do una scatola di supposta, da mille. Ciao Manuele, ben sentito. Scusa se ho la voce incicciata, ma ho preso un bel freddo. E sono HH. Ciao, Marco, sì, giusto? Eia, ma oggi sta arrivando fortissimo il segnale. Hai messo l'antenna sopra, sei 9, oltre 9 modulato, non ne parliamo. Ha messo l'antenna in mezzo all'acqua. Sempre quella, Marco. Sempre quella. Deve essere l'acqua che gli ha fatto effetto. Non lo so. Allora, qua sei 9 più 5, modulato 9 più 10. Che rispetto a prima è abissale la differenza, prima eri tipo 6, 7, o giù di lì, 7 e mezzo dai. Ma in casa non sei tu, come sono mi sembra? Dove c'è il cinema, ex cinema Ariston. Ah, cavolo, ma siamo vicini però, Marco. Siete vicini, no? Poi te l'ho detto anch'io che stai arrivando più forte e se ti rudiguio dromedini. Prima non arrivi così, arrivi più basso, un bel più basso. Poi c'è una radio anche forte, oltre che più forte di segnale, arrivi anche più forte di radio. O hai fatto qualcosa, non lo so. Ehi. Su coso, su AliExpress, c'è un'antenna a forma di pisello, lui ha comprato quella, si è portato quella, hai capito? In pratica le palle gli fanno la massa. Ehi, nella caldarella le ha messo. Ha messo il cavo nel cassetto dell'acqua, con me. Marco, a te non compareggi. Quelle non sono palle, sono radiali circolari, capito? Sono ottimali per quell'antenna. Ehi, ce li ha messi dentro la caldarella dell'acqua per fare più massa. Ehi, Antonello, a comprarselo però poi bisogna tenerlo pure, bisogna comprargli il mangime, la gabbietta, caspita. Ma cosa, basta che lui riempire acqua ogni giorno, mi metti in affiatto io, sai come c'è bene. Domani quando non piove gli si secca tutto e scende Santiago 5. Sì, mica se si secca la chicchia, com'è? Quella è già secca di pomponi, omi. È sicuro. Com'era la rima, con Camuru? E su modi che in curu. Se non vi pongo una mortante a voi. Mica ci... Dai, Riccardi! Parla! Guardate che c'è il lupo, state attenti! Che il bosco vuole rastrellato a manetta! Belli bene, sono qui, non preoccupatevi, sono vivo! Ah, già vivi, sopravvissuto, sì! A tutti gli improperi che dicono questi qua! Boh, io non lo so! Tutti cuomani sono, mi ricordi! Già lo so, Natalino, non c'era bisogno che me lo dicevi. Riccardino, ascolta a Concetta, stai attento al lupo, guarda che nel bosco non c'è più Cappuccetto Rosso, c'è Riccardino adesso. Antonello, e quel progetto ha accantonato tutto? Ho capito, Marco, dimmi. Senza dire cos'è, quel progetto ha accantonato tutto? No, tranquillo. Ok, visto che stanno abbassando i prezzi in occasione di una festa, non ho capito che festa sia, ho già fatto due ordini. Me lo voglio prendere, te lo sto dicendo che me lo voglio prendere, parcheggio. Tanto io, a me il 25, da 25 al 27 mi caricavo la carta. Quindi prima mi tiene in contante, ma sono a posto, capito? Più. E presto, quindi sono tranquillo. Va bene, io vi saluto, vado a farmi una pera di caffè. Riprendi Emanuele Ginco, buona serata a tutti, ciao. Ci sentiamo a migliori occasioni, poi mi attacco la tipo, ciao. Sì, ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Avanti, Natalino. Ciao Marcolino Condo, tu sì che mi calmi i nervi. Peggio per te che te ne stai andando, adesso passano i dolci. Avanti, Manuè, che se ne sta andando in quel reti Marcolino. Ehi, ok, ciao Marcolino, ci sentiamo, tutte le migliori, dai, e buona giornata e buona serata di tutto. A te, come si chiama? Ragazzino, come si chiama? Adesso non mi ricordo, Riccardino, vai Riccardino. Ehi, grazie Emanuele per il mic, saluto a Marcolino e buona giornata, visto che il fuso orario è diverso. E ci sentiamo alle prossime. Vai Natali. Oh, dimmi Emanuele. Vai tu, riprendi il mic. Aspetta che hanno suonato. Quelli sono i carabinieri, aderami. Chi è la porta? Carabinieri, apra. Sono andati alla casa di Natalino, il carabinieri di Adra, la cavalla all'asino. Dico, scenda, signor Natalino, scenda che la portiamo a passeggiare. Dai, rimango un attimo così, ci sentiamo dopo, dai. Ehi, a dopo Emanuele. Ciao Emanuele, a dopo. Secondo me sei salito sul palchetto, guarda. Ci avevo messo una taglia da leva, sotto l'antenna. Hai capito, un pezzo di cavo li metti, di calza, li metti un po' di acqua dentro e sei a posto, poi aspetti il giorno del temporale, stai tranquillo, la prima mattina che si passa la tua. La radiale della matta va, sto usando Antonio, la radiale della matta va attaccata al poggiolo di casa, pensa tu. Sto succedendo, mettici un coso, una segnala leva lì vicino. E vedi che ti fa massa, vuol dire che non fa massa quella ringhiera. Graffiala un pochettino e vedrai che sei a posto. Sì, già fa massa, tranquillo che già la sta facendo la massa, a voglia. Speriamo bene, comunque già arrivi bene, 8:30 quasi 9. A meno che fai come ti ho detto io, mi sale sopra il tetto, te aggancia Gio Maria, ti metti un T, quando non parla lui parli tu. E c'è la moto, ma lì che se ne sta vedendo, bastava agganciarti, ti avessi preso tu, ti passava il cavo da lì, 100 metri di cavo fino a casa tua. La moto non ce l'ha più, no? Già un giorno l'ha tolta la moto. Sì, sto parlando la moto di Mario io. Hai capito? Non facevi altro che, tanto che siete una stessa palazzina, non facevi altro che a posto di piazzare palo tutto di vicino a te, agganciavi un barilotto e la portavi direttamente come di 50 da casa tua. Non c'è neanche quella di Mario, ha tolto anche quella. Sì, vabbè, lo so che non c'è quella di Mario, ma se ci fosse stata te l'avresti presa tu, detto, stavo parlando di quello, posso farla staccare, ti avresti usato quell'antenna lì, le avresti detto alla moglie di Mario di lasciarti l'antenna, le avresti pagata, ma fa cuffia, per dire. E avessi allungato il cavo e avessi avuto il cavo direttamente in casa del tuo mare, ma il discorso è quello che poi a te di quello non ti hai fottuto nulla nel baracchino perché sei partito fuori a lavorare. Sì, io sapevo come ti sei risolto, minimo avevo 3-4 metri di cavo, si ti lasciare. Vabbè, ma almeno ti avessi risparmiato il lavoro che installare le gaffe, eccetera, eccetera, piazzare la parte tua, hai capito? Quello ti volevo dire me. Già va bene anche così, dai. Tanto per fare quattro chiacchiere con amici, basta e ammazza questa antenna, dai. Questo di video. Va Riccardo. Va bene. Non so cosa dire, il discorso è quindi. Se mi dici un discorso così so che cosa posso parlare. e tutti torni un discorso e poi vediamo cosa possiamo dire, no? Dai, allora facciamo così, vediamo a Natalino se c'è ancora, se è ancora vivo dai carabinieri. Va bene, faccio un attimo il corretto, devo fare una cosa, un lavoro, ci vediamo fra 4 ore 20 minuti. Sì, dopo casomai ci sentiamo più tardi. Ciao Antonello, ciao Riccardino, ciao Natalino, se sei in ascolto, alle prossime, dai. D'accordo, a dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Attento 10. Attenzione 10, ci ascolti Riccardo, Alfa 21. E beh, Riccardo. E beh, Robè. Chi c'è? Sono tutti scappati. Chi c'era? C'era Antonello, Manuele, Natalino, Marcolino e... Poi mi sto dimenticando qualcuno, forse Doppio Room è andato a mangiare anche e basta, ci sono ancora io in frequenza parlando. No, io ho già mangiato, mi ha preso una bella teglia grande di fene. Ti piace la fene, salsicce e cipolle? È il massimo. Era da poco, non la mangiavo e me l'ho mangiata di gusto. Già ci voleva, Robè. Tu devi fare la cena, Erika. Ho fatto una, ho mangiato una cosa veloce, però se c'è qualcosa di buono a tavola già lo mangio volentieri, se no ho già mangiato. Così è. Così è. Ha piovuto di lì dalle parti vostre? Un poco, neanche tanto. Lo schifattino anche qua un pochettino, ho fatto una schifattina. A Parlatore già ha piovuto stasera perché c'era mia figlia e mi ha detto che stava piovendo per il pomeriggio. Scappa, da Porto Torre sta qui, l'ho visto che c'erano i nuvoloni. Quello che mi ha fatto vedere in fotografia, ma ce l'hai già tu, Riccardi, quello grigio? No, negativo, te l'ho fatto vedere così. Quello è uguale a quello che ho io, il mio rimane tutto scuro però, tutto grigio scuro. E c'è più il coso, la sintonia digitale. Di quello il mio, quindi cosa ne pensi però? Ma Riccardi, a meno che non sia un affare, proprio affare, tipo come l'ho fatto io col trio, se no sinceramente non è, è bellino, esteticamente è molto bello, piacevole, però alla fine cosa dici? Cosa ne faccio? Interrogativo. Il piccolino lascialo perdere, quell'altro che mi ha fatto vedere il piccolo veicolare, quello è una cosa, non ne fai nulla. No, era per fartelo vedere, era bellino così. Sì, ma non è neanche quello che dicevi tu, è per altri tipi di cose, per altri tipi di utilizzo. Infatti guarda la frequenza e ti rendi conto a cosa serve. Sì, sì, lo so già che raggio è, che raggio fa. Ma non è quello che mi hai detto a me, è diverso. Ah, è diverso ancora? Diverso per banda di frequenza, per quello sto dicendo. Ho capito, sì. Già ho capito. Allora non è, pensavo che era come avevo detto io, invece no. Rieccomi. Rieccoti? Eia. Gaba. Guarda, devo prendere un altro cavo per provare con l'altro apparecchio tuo, perché non ho voglia di staccare niente da dietro, che è troppo scomodo. Devo guardare nell'armadio dove l'ho messo, così magari dopo, secondo com'è, lo proviamo qua. Provalo, mi fai sapere, così, anche se mi hai possibilità di farmelo ascoltare. Assolutamente, è per quello allora. Scappa, va bene già. La radio, il coso, il Zodiac, l'hai provato? Sì, l'ho provato diverse volte, se vuoi lo attacco così tu mi fai ascoltare quella che hai tu, io ti faccio ascoltare di nuovo lo Zodiac. Vabbè, ma quella là, per ascoltare quella grande, la tua grande, devo fare un po' di complicazioni, dai, però fammi sentire quella lì dopo, magari 5 minuti ci impiego per collegarla, quella devo andare prima a cercare il cavo di alimentazione e poi il resto. Eia, va bene, adesso intanto attacco lo Zodiac. Eia. Tanto facciamo una chiamata generale sul canale 10, se c'è qualcuno che voglia rientrare avanti con la buonasera. Ebbene, Rubino. E chi sei? Antonio. Antonio? Antonio. Antonio chi? Molti ne conosce Antonio. Un bel ne conosce Antonio. E quale Antonio conosci? Certo, c'è Antonio Riserva, c'è Antonio Bombolo, e poi di Arve. Io sono Antonio Miscella. Antonio Miscella. Antonio Miscella. Miscella. Ah, sei Luca, a me mi pare Luca. E c'è questa voce? Microfono normale, Robert. No, non è normale, la voce è invecchiato, mi pare, con quel microfono. E cosa vuoi dire? Vuoi dire Gubeccio? Mi sembrava, non provare, ho detto Luca, ma Luca non è. Antonio Momo, non è, ha giusto che perché sto guardando il segnale. Poi ho detto, no, Brito è Luca, quella voce un po' mascolina, come diceva qualcuno. Aspetta che c'è qualcuno che ha chiamato, avanti. Oh, Roberto, sono io. No, non eri tu, ce n'è un altro, molto più forte. Chi è che chiamava? Niente, volevo solo dirvi di votare Antonio. Vota Antonio, la trippa. Vabbè, Fabio, perfetto, c'è un altro segnale più forte. Io vado per segnali, non vado solo per le voci. C'è Luca che è invecchiato di 10 anni e più c'è Riccardino che è sempre uguale, c'ha questo Zodiac che ci deve far sognare. Avanti Riccardino. Ah, Luca, Michela, ci sto perdendo. Oh, forse non te la sento. Fammi sentire Riccardino questa radio. Ehi, dimmi, cosa hai pensato di questa radio? Stavo chiedendo a Luca, era Michela al 5%. Quindi conosci anche le miscele tu, pensavo che andassi solo a benzina verde. C'è anche Fabio, non ascolti a Fabio, Riccardino. Lo dicevo a Camparoglio, lo saluto, te lo sento forte e chiaro. No, forte e chiaro. Hai capito, Riccardino è un ragazzo sveglio, eh. Comunque, se volesse sentire la mia radio, me la faccio sentire dopo, eh. Cazzo, mi pare la giostra, quando dice nuovo giro, nuova cosa, anche tu ti sei fatto medicare con l'eco. Che sembrava quello di Matterland, attenzione, dischi volanti, nuovo giro, tutti su. Nuovo giro a nuova costa, l'uscita è sulla destra, l'ingresso col gettone. Ah, no, che sta nel radio Luca, ma non è amplificata che sarà. Tu fuggi, due entra e poi fuggi. Vai Riccardo. Attenzione padre Fabio. Appa gappa. Ehi a roba dimmi. Chiesa. Ma noi devo riascoltare perché se no non ci capisco nulla. Sono giù che è radio, a video giù. Siamo 4 gatti. Fabio. Niente, ho detto avanti il figlio Riccardino. Figliuolo. Qua ci vuole una rotatoria, siamo in croce per colonno. Vabbè. Luca. Questo è Emanuele Cinco. Ma non è Luca. Ciao, Emanuele Cinco è. E perché sta facendo così forte? Perché è a casa di un amico sicuramente. Ma quello che ha parlato prima era Luca. Allora tu sì. Ehi, Robè, ciao, buonasera. Ma poco fa c'era anche Luca, non eri tu, no? No, lo so. Tu, non hai compreso nulla. Che è Antonio, sono. Quello era Luca, però. No, negativo, ho capito che si è messo l'antenna, ha messo l'antenna, capito, l'ho spostata. Ed è in posizione sicuramente migliore. Arriva anche a me, l'ho sentito pure io, figurati. È un bel forte. Emanuele, che radio stai utilizzando? Che radio sto utilizzando? Sempre quella, Robè. Sta arrivando la bomba, la radio fortissima. Ciao anche a Fabio, Fabio Master, mi ha sentito anche a lui, eh. Vai Robè. Capa, allora ricambio solo io. Sì, ben sentito, proprio ben sentito perché ti sento, che figata, eh? Con il mio pezzo di fil di ferro e con il tuo pezzo di fil di ferro riusciamo a comunicare, le magie della scienza. Ah, ti ascolto abbastanza bene, fa, tranquillo. Ti ascolto abbastanza bene, va ricavi. Io tu ti la patata a bocca, te lo ginco. Ehi, avverti! Buonasera, ciao a tutti. Ciao Tino, abbassa leggermente, comunque, te lo stavo per dire, mi ha anticipato Tino, abbassa leggermente, come si chiama, Manuel? Sì, già abbasso, ma anche in terra poco. Sì, non si può mettere in terra. Sì, dopo mi devo insegnare. Ma lascia così, già va bene. Sì, vabbè, tutto a posto. Tutto a posto e niente in ordine, come dice qualcuno. Ok, ma il microfono da tavolo o da tavolo che stai mangiando? Normale, saponetta. Ah, là, per quello ce l'hai molto vicino alla bocca. Vabbè, dai, sei molto fuori. Hai cambiato posizione di trasmissione o sei da un amico? No, a casa sono, che da un amico. E cosa hai fatto tu per avere questo miglioramento? Te l'ho spostato. Che cazzo, stai arrivando la bomba. Te l'ho detto, ho spostato l'antenna. Come va di avere matto qua? Sempre quello lì. Sempre quella l'antenna, io, vabbè. Adesso ti ascolto molto, ma molto più forte. Sei 9 più 10, radio a bomba. Meglio così. Ciao Tino, anche a te, c'è Riccardino e c'è Fabio Massa, ti rilascio a Fabio che probabilmente è quello che ascolti più basso. Ciao a tutti, ciao Fabio, sono anche a Trinzi, oh yeah. Ottino. Sì, sempre bassino dalle mie parti, ma vabbè, già ti sento, solo che se c'è un po' di propagazione ti copre. Così va meglio la radio, guarda, magari un po' meglio. Vedete la verità, sì, Santiago 4, radio 3, quindi giusto per farti un paragone. Ti ringrazio per il controllo, dai, sento un po' meglio, ero convinto di essere Santiago 1. Beh, mi ascolti, ti ho gusto. Bella, va bene, va bene. Come che c'era anche Luca, non faccio correre in bambini. No, ci sentiamo la mattina per quella cosa. Ehi, a qui sei vero, Letti? Sì, vabbè. Mi stavo su curva a me, che più bello sì. Ma io me l'arrivo. Bravo, bravo. Sì, domani mattina, ma aspetta, a che ora però? Vabbè, se lo disturbiamo, ma sul 20 mattina. Beh, no, mi ha migliorato tantissimo di coso, di segnale, ma un bel, non so se Riccardino ha cambiato qualcosa, da me è migliorato un bel. Ma migliorato, avrà migliorato, che ne so, poca roba, però noi non spostate tanto l'antenna, La radio magari un po' troppo amplificata, potrebbe andare meglio, comunque già ti tiro fuori chiara, chiaramente non ci sono problemi. Avanti a te, Fabio. I piccoli CB crescono, ma ancora vengo giù, non è possibile. Tu stai facendo concorrenza a qualche negozio di coso, di non di negozio, qualche parco di divertimento. Ma che parco di divertimento? Piace così, ti gioco con questo microfono. Ma tu lo stai facendo col microfono o con l'apparato? Lo sto facendo col microfono, l'M600 è un giocattolo, ti puoi fare quello che vuoi. No, c'è anche io l'M600, ma tutti questi effetti così non ce li ha. Infatti, io questo l'ho usato per un sacco di cose, anzi, tutte le modifiche le ho tolte. Mi è rimasta la regolazione spinta della ripetizione e l'amplificazione dell'eco ritoccabile in maniera particolare. Guarda, con questo microfono. Che pazzia, guarda. Ma ti stai ascoltando oppure? Sento, passo la cuffia, devo tenere la trapassa e l'antenna, se no me lo satura. Questi cable si fanno saturare, sono uno schifo. Bellissima la modulazione, Fabio, è troppo forte. Tagliate, sono diventato. Riccardi, se ti sento con l'eco ti cancello la cosa, la figlioccia. Va bene, Robè. Ma se la volevo comprare una camera ecco, Riccardo. Dai, è una cosa carina, ti diverti, poi la molli. Ma quella ne va bene al mercato, opa. A me lo stesso non mi piace l'eco. Mi piace normale, ma un po' di amplificazione. Ecco, proprio nulla. Ma io non lo uso mai, è che girando il microfono sicuramente ho toccato un pochino questo potenziometro, normalmente quando lo tocchi un po' manco si sente, invece questo microfono è tutto modificato perché l'ho usato per altro, e allora niente, gli è passato un millimetro qua, sotto un millimetro, millimetro, e si mette subito l'eco, capite? Ma non lo uso mai, vabbè, ma mi hai mentito con l'eco. Infatti ho detto, strano Fabio con l'eco, perché a me mi hai sentito, io sono cultore della radio pulita, chiara e naturale, non mi vedete mai con questi tutti effetti strani. Però io il tuo eco lo sento sempre, perché mi sento prima dal baracchino e poi arrivo alla finestra. Ah, tu senti la cosa, tipo, come si chiama, quando senti prima il lampo, vedi prima il lampo e poi arriva il suono. Esatto, adesso se vuoi fare un passaggio a mezzo a cacciare io ti rispondo lo stesso troppo. Cioè, devi calcolare la velocità del suono, 1200 km orari circa, per cui da quando mando portante che c'è la velocità della luce c'è un leggero ritardo. Esatto, vabbè, ci arrangiamo. Comunque, tanto stati lui per su, ma ne ha AGC questo microfono, lo senti come quando mollo? Ci sette sotto, incredibile, che cazzo che ho fatto, poveraccio. No, oh, già spinge parecchio. Ok, vai tu Manuele, avvaccate il mic. Già va bene Fabio, va bene la modulazione, dai, si sente bene. A pensare che prima non ti ascoltavo e non ascoltavi neanche a me. Evidentemente che era impostata in un punto dove no, erano negativi per tutti e due. Ti volevo chiedere, ma da te ha migliorato qualcosa? Da me, è a bulla, ripeto, sei 9 più 10, eri prima a 7, è un bene, la radio è una bomba. Ma dai, dai, funge a me allora, guarda che lì. Uè. Riprenditela. Ehi, riprendo io, va bene. Roberto sarà felice che sto usando la modulazione che piace a lui. Questo che cosa è, il coso, il tab? 34S con il microfono, il nome che non ti ricordi mai. Eia, bella, questa mi piace tanto, già lo sai che con le MB più 5 mi piace. Dimmi una cosa, io come ti arrivo invece a te, dalle tue parti, Emanuele? 9 più 10, lo stesso segnale mio. La radio è bella amplificata, è abbastanza chiara, eh. Abbastanza non basta, deve essere chiara la mia. No, no, è chiara, dai. Mi correggo, è chiara. Eia, cosa volevo dire? Fabio, avanti per te il mic. KK. Allora dai, è bello sentirsi, riuscire a sentirsi. Certo che rompla il microfono, certo che con una radio ben amplificata, pulita, eccetera, e antenne in buone posizioni, magari anche meglio. Però, come ti dicevo, piccoli cibi crescono e piano piano si cresce. Come si fa a vincere l'un altro? Adesso c'è questo impedimento alla batteria, anche lui ha un impedimento, e mi scusa di girare la parte, la parte, se io penso che ho l'antenna quella lui, tra l'altro, non posso andare dall'altra parte, lo penso, non vedi da cosa fa? Io sento, ma lei non fa il cazzo. E fra qualche mese comprerò anche la tua stazione. Questa comandante, questa nera? Tutta la tua stazione. Cosa mi fai? Un'offerta che non posso rifiutare, Silvia. Un'offerta irrinunciabile. No, ma gli affari tipici che ho sono affezionato. A parte la stazione, che ancora però devo massacrare, non è neanche vendibile così. Cioè, sì, funziona, esci, ricevi, bella, funziona tutto, però così non è vendibile. Io non la venderei mai. Che cosa c'ha? Ricambiare, prendere, mettere sul banco, montare tutta, pulire tutta, controllare tutti i componenti uno ad uno, rifargli tutte le saldature e poi fargli una taratura. Ci saranno 20 giorni di lavoro sul banco. Ma sta parlando della macchina? Cioè funziona, Roberto, funziona perché ha un'ultima ricezione, riesce a uscire se regoli un po' il mid gain, ci puoi collegare anche con il microfono qua per dire se riesce a uscire bene di radio, però è tutta fuori, è completamente fuori, cioè sta funzionando perché veramente gli sta facendo fare salti mortali in queste condizioni. E come fai a prendere un apparecchio così? Io mi avevo la faccia in terra. Ma qual è quella che stai utilizzando adesso? No, questo qua è il mio mitico barattino di 40 anni, 34S. Ah, ho capito, ho capito. No, è bella veramente, infatti mi ha colpito tanto quando l'ho vista, ho detto, veramente una bella base. Ecco, bella e bella, funziona anche, però non è in grado di funzionare come dovrebbe. Sinceramente, ti ripeto, non è vendibile. A me è arrivata così, l'ho pagata poco, quello che vuoi, però sinceramente se avessi saputo alcune cose ci avrei pensato, nonostante io magari sia anche in grado di mettermi la foto da solo. Ehi, vai Manuel. Fabio, piano piano. Comunque, a parte che tu sai il lavoro che devi fare, non sai dove metterci le mani. Ma se uno non sa dove metterci le mani, lascia perdere prima che fai danno. Io cacciavitti non ne prendo mai se non sai dove toccare, assolutamente. Ma vabbè. E adesso parliamo di argomenti tecnici. Un dubbio, Fabio. Allora, sempre ritornando a quel discorso dell'antenna GPS, navigatore satellitare di macchina, su che frequenza lavora con l'antenna? Con la frequenza a long range, penso che possa giocare dagli 800 tipo ai 1500, qualcosa del genere. No, quello che voglio dire, non utilizza le frequenze classiche satellitari. No, no, no, perché il GPS ha, ha delle frequenze diverse. Non si mischiano le frequenze, ma neanche per scherzo. Pensa che pasticcio, se ci fosse l'identificazione dei satelliti sulla medesima frequenza del broadcast sarebbe un casino. No, non mi sono spiegato, no, naturalmente no con il broadcast. Parlavo del discorso della ricezione. La frequenza di ricezione, siccome per ricevere il GPS, diciamo quelli nautici, quelli che ho io, e un paio di quelli, deve avere il satellite. Quello che devo capire, utilizza il satellite per la posizione o utilizza altri sistemi? No, utilizza il satellite con l'antenna, però sono combinati, nel senso che molti sistemi GPS hanno abbinati anche il GSM. Il GSM di riconoscimento a cella si aggiunge al riconoscimento del satellite e allora data le percentuali in decibel si arriva alla posizione. Quando sono combinati anche con l'utilizzo di Wi-Fi, perché adesso ci sono dei GPS che hanno praticamente il GSM, il GPS classico con satellite e l'utilizzo del riconoscimento delle reti Wi-Fi localizzate, la precisione arriva a un centimetro. No, quello che volevo dire, per cui non è la domanda che la sto facendo, infatti mi stavo venendo dei dubbi, infatti ho detto, sicuramente utilizzano, non utilizzano solo il satellite, lo stavo dando per scontato anche io. Perché il GPS, quello nautico, diciamo, quello marino, devi per forza avere quattro satelliti visibili, se no non riesci a darti la posizione, deve fare le triangolazioni, eccetera. In questo caso utilizza la rete cellulare come posizionamento, diciamo, come posizione, per cui anche all'interno di, di un locale chiuso riesci a prendere la posizione. Esatto, se tieni il GPS con riconoscimento delle reti GSM e Wi-Fi sono nati come antifurto. I primi che hanno fatto e quelli che sono in giro con alta precisione sono di tanti furto, perché logicamente se tu metti la macchina dentro un garage una volta che l'hai rubata o la metti dentro magari un camion, il GPS non riesce più ad avere la posizione, a fare la crono. Con il GSM hanno fatto il riconoscimento, con le Wi-Fi in America ti dicono che la macchina è da questo centimetro a questo centimetro. Pensate. Sì, anche il GPS naturalmente, parliamo il GPS non quello standard, perché quello che utilizziamo normalmente li mettono i codici di errore, per cui non ti danno la precisione. Parlo il GPS è quello che utilizziamo come localizzazione in mare, quello lì teoricamente se tu riesci a entrare, va bene, nessuno ce l'ha, parliamo i militari, loro ti danno la precisione al centimetro, anche meno del centimetro, anche se adesso c'è una rete nuova, la Galileo, quella fatta dal consorzio europeo, e in maggioranza sono tutti satelliti di produzione italiana, insieme ad la mal di gola. E il GPS noi ci abbiamo tutti, e io ti trovo il punto, io ho fatto delle scommesse e le ho anche vinte, perché dice il GPS ti dà la precisione al serto, il GPS è militare, ma non quello che utilizzi tu, ti danno dei codici di errore in modo che non sei troppo preciso, fatta apposta. Sì, K. Allora, conta che il centro banda di quelle frequenze di GPS, per non il discorso delle frequenze, è sui hanno praticamente un centro sui 1000 più o meno, dunque dovrebbe essere tra gli 800 e i 1500, non tra gli 800 e i 1200, così occhio e croce, per i satelliti riconoscibili che vanno a piccone, lo sai, sì. No, infatti ci avevo voluto togliermi un dubbio e basta. Infatti con l'antennina ho buscato non la classica con la bottone, un'antennina la devo provare, un'antennina tipo quelle che utilizzi per attaccare l'interfaccia col computer per aumentare la ricezione della Wi-Fi. Ne ho dato una piccolina di 5 cm e la voglio inserire direttamente dietro, di quelle pieghevoli le puoi fare a L, diciamo, come cosa, la voglio attaccare direttamente al coso. Il dubbio mio era provarla all'interno se funzionava, me lo stai confermando anche tu, perché ho detto la logica è così, per forza prendere il segnale dalle reti cellulari. No, allora praticamente se è combinato GSM sì, ti funziona sicuramente, Michelle che non è combinato GSM, devi contare che per avere una precisione accettabile deve prendere almeno due satelliti, accettabile, per iniziare a funzionare deve prendere almeno due satelliti, per essere precisione deve prendere tre almeno, perché va in triangolazione, no? Ah, beh, apro parentesi, quell'auto che ti dicevo sta consegnata, sta posta, eccetera, domani mi dico non c'è, lì, perciò lunedì mattina o pomeriggio ci dobbiamo mettere d'accordo lunedì mattina presto, a seconda degli impegni che ha, quello che devo fare io, smonto quella parentesi da quella macchina e ti prendo l'antenna per te. E il cavo è abbastanza lungo? Guarda, il cavo è quello originale della Pioneer, cioè solitamente quando monti autoradio Pioneer con l'antennino così devi trovare un punto dove avvolgere il tipo di cavo che ti avanza sempre. Ok, va bene, adesso capita. mi interessa tantissimo, te ne avevamo già parlato. Ok, Riccardino, a te, io vado a bermi un goccio d'acqua che c'ho un po' la gola asciutta. Due minuti arrivo. Poi Robè, sono qui, adesso Fabio ti mando la foto di come ho lucidato il rosmetro. Ah, il rosmetro dall'otto? Questo Emanuele non lo sa. Non lo so come l'ha fatto Riccardino. Io lo stavamo parlando al telefono, qua e là, lui stava camminando nell'orto e fa... Ma no, aspetta, fai vedere. Oh cavolo, ho trovato un rosmetro nell'orto. sì. Dai, rimango un attimo in quell'exe, Fabio. Ci sentiamo più tardi. Riprendi, Riccardi. Facciamo il venire avanti a Fabio, no, che ti fa fare una foto perfetta. Ti ho parlato sopra, di sotto, scusa. Ma hai visto? Ancora uno spedito, adesso te lo mando. E gamba. Luca, il bello del monte, mi ascolti? Ma manco va nulla, proprio non ci arrivo. Io sono sotto questa antenna, metto questa antenna. Cosa inneschi? Parlo più mi, si sbatto per terra, come l'altro giorno, che è finito a terra. Questa è empatia con gli apparati. Cos'è Riccardo? Questa è? Sì, questa è empatia con gli apparati. Ah sì, cos'è successo? Il rosmetro sta facendo l'occhiolino a lui. Che stavo dicendo che far da bravo a non innescare al tuo. Comunque commentamela anche qui, tanto non c'è problema, ormai la sa dalla 27 di questa storia del rosmetro. E mi dici cosa ne pensi da quanto l'ho lucidato. Aspetta che la sto aprendo, qua la scritta che si vede bene, le tacchette lì bianche su quella regolazione. Sembra una cosa seria. Riccardo. Sei miseria. Ma sì, poverino. Ascolta, mi ha detto che mi sarà bene. Funziona bene. Già, non va male. Funziona. Funziona. Ecco, c'è la rete, poverino, ragazzi. Che sta facendo ancora sette vittorie. Che sta, magari da quando tuo padre stava l'apparato, cioè tipo almeno 25 anni fa. Qualcosa del genere. Io non penso che si sia ribaltato ultimamente, tu cosa dici? Comunque questa qui è solito apparecchio che usi tu, no? Giusto? Qualche volta questo lo uso di solito, il tornado. Sbaglio pure su questo, quando premi il tasto non arriva subito la radio. Fai una cosa, inizia a parlare prima di premere il tasto, così vedo un attimino come sale l'audio. Va bene, dimmi cosa ne pensi, ho iniziato a parlare come ho cliccato il tasto del PTT. Gappa, ma che microfono è? Spander 500. Sai che idea che c'è cosa del microfono, che... perché poi sull'altro apparato c'era questa cosa. Quando premi inizia, praticamente fa così, no? Tipo tu, premi e per un attimo si sente la radio che sale, adesso io la passo, la metto a zero. Capito, cioè parte un attimo dopo. Sono rientrato. Perché è un piano un po' flessibile, quindi non clicco bene il tasto del PTT e adesso provo a cliccarlo al massimo al 100%. Magari esce questo difetto. Avanti Roberto, ma tu glielo senti per Robertino che questo difettino che quando iniziava a parlare praticamente la voce passa da un livello basso a, cioè ci mette un po' arriva il regime il preamplificatore. No, sul coso, sul tunnel non ci ho fatto caso, sull'altro apparato ho notato che arriva una frazione di secondo in ritardo. Ma secondo me questo expander che sta usando probabilmente ero convinto che fosse l'altro apparecchio, invece il problema dell'apparecchio invece fosse il microfono. Può essere, perché lo fa anche con l'altro tunnel sull'altro apparecchio, magari è una caratteristica di questi apparati, di questi microfoni. Bella comodità che devo premere e poi inizia a parlare. Vabbè, sarà per conversazioni di gente più tranquilla di noi, per quelli che lo tengono fisso con qualcosa, con look fisso e stanno parlando solo da una parte. Ah, così, funziona così. Ma secondo me c'è un po' troppo alta l'amplificazione. Adesso che mi stai ascoltando, ma così non la faccio. Così va meglio o è uguale? Allora ti ascolto sempre bene. Però direi di far entrare a Manuele che è in parcheggio da un po'. Avanti, No, Manuele era in quel Rix, ha detto che sarebbe diventato così, ecco, se non altro. Sbaglio, mi capisco. Ma scusa, stava mi innescando. No, non sbaglio, ha detto che rimanevo un attimo in quel Rix. E niente, adesso sto usando ancora un altro apparato. Abbiamo un tratto. Oggi ho messo a posto un autoradio, Roberto. Un autoradio di un paio d'anni fa della marca famosa. Una cosa carina, un giocattolino, guarda. Però per essere di questa marca c'ha addirittura un po' di acuti. Quali sono gli autoradio che non c'hanno acuti? No, beta è installato così o recuperato? L'ho recuperato, ma mica ha preso una macchinetta, ha detto qua, ti faccio un pensiero, ti metto una radiolina. Mi non fare lo scemo, mi con le tue radioline, una radioline, dai, ti metto una radietta, adesso rugo in garage, la prima che trovo ti piazzo, ho trovato questo, se ti mando la foto. Cosa è giapponese o italiano? Sicuramente mi di China. E io. L'audiola, te lo ricordi come autore? Capo che me la ricordo. La ricordo bene, mi ricordo anche la figurina. Sì, io ne avevo uno di audiola digitale, uno dei primi digitali. Digitali, come si chiama? Non solo la frequenza digitale tipo gli autobox, questo era proprio digitale, uno dei primissimi che lo faceva, la Pioneer molto simile, con la mascherina in alluminio, color argento, dai, e c'era un tastino, una specie di commutatore, neanche commutatore, dai, chiamiamolo, un regolatore che ti svoltava a destra, c'era una levetta, dai, a destra andava avanti e a sinistra tornava indietro. C'era una levetta, ma avanti. Allora, una sola levetta, se schiacciavi usciva il nastro, a sinistra indietro, a destra avanti. No, io parlo per ricercare la frequenza, sto parlando, non per ricordare, già ti ho capito quella dell'autoradio che lo faceva la Pioneer, questa era dell'audiola, simile come concezione, una levetta in alto a destra, se la tenevi premuta per un paio di secondi andava in scansione veloce, se invece la tenevi a colpettini faceva la scansione manuale. Ah, capo, sì. Ti puoi immaginare, quindi era un periodo in cui io su queste cose andavo matto, cioè poi passavo per l'autoradio un periodo, poi io ne stavo autoradio, ne stavo due al giorno, perciò ho capito qual è il modello. Che fuori, però ti rendi conto tutte le cose che hanno fatto così per interessare il mercato, per essere un po' diversi dagli altri, che fuori. Ma allora però non ho capito se è un marchio italiano, non sono sicuro che sia italiano, lo sai, stavo leggendo da qualche parte l'altro giorno e mi sembra che non sia italiano. Ah, io l'ho convinto fosse italiano, anche se da tanto avevo saputo che c'era una produzione all'estero, però sai com'è queste aziende, no? Magari tipo la Fiat quando fabbricava in Brasile, roba del genere. E poi ieri, non so se l'ho detto a te, il discorso tra Iesu e Sommercam, te l'hai sentito il discorso? No, forse due parole così, ma non sono arrivato a fine discorso, mi sa. Oh, no Roberto, fammela mai il discorso che non l'ho sentito, sono molto interessato su questo argomento. Allora, noi, come compreso, penso tutti, eravamo convinti che la Sommerkamp fosse stata rilevata dalla IAESO, e da quel momento lì si chiamasse IAESO, non esistesse più la Sommerkamp. Non è assolutamente così la storia, se volete ve la racconto. Racconta, e anche in fretta. Allora, negli anni 80, anche prima, diciamo negli anni 70, non anni 80, forse fine anni 60, inizio anni 70, c'era il blocco delle importazioni dal Giappone, perché il Giappone stava diventando troppo invadente. Allora, come le macchine, avevano fatto i contingentati, diciamo più di un certo numero non potevano portarne. Sommerkamp è distributore, esiste ancora Sommerkamp, tra parentesi, il cognome di un distributore svizzero che lo distribuiva per tutta l'Europa. Per cui i prodotti marchiati Sommerkamp sono l'IAESO, arrivavano l'IAESO senza la mascherina, lui li portava in Svizzera, metteva la mascherina con nome Sommerkamp, lui mi sembra si chiama Bob Rudolf Sommerkamp, e li distribuiva in tutta Europa in modo da girare questo stacco, come che fosse un prodotto finito in coso, prodotto in coso in Europa. Hanno girato l'ostacolo così. Attualmente esiste ancora la Sommerkamp, infatti non è marchiato IAESO, quelli che vengono distribuiti, sono ancora marchiati Sommerkamp, per il mercato svizzero parliamo, solo mercato svizzero. Tutto il resto d'Europa dopo qualche anno è rimasto IAESO. Cos'è K? Non ha fatto per l'istituzione dei prodotti questa cosa, perché l'importazione del prodotto finito viene tassato in un modo, l'importazione invece dei componenti, con l'accusa che potrebbero essere i ricambi, tassati in maniera diversa. Perciò molti fanno arrivare il prodotto assemblato, qua tutto assemblato come ricambio, e poi con appena appena arriva l'opera del prodotto finito ci possono addirittura mettere il timbro prodotto in Europa, capito? Cioè, non ti dico poi la sera del pomodoro concentrato, hai presente? No, ma se volete ve ne racconto un'altra ancora peggio di storia. Ma così, a raccolta. Adesso non c'è più il Giappone, c'è la Cina. Tu quando senti un matrimonio, ma di Cina un po', ti senti un pochettino così distaccato, se invece lo stesso prodotto ma in Germania o ma in Europa è diverso, lo valuti diversamente, anche se quasi tutti i prodotti, compresi i migliori telefonini e i migliori televisori, sono tutti prodotti in Cina, raramente vengono prodotti in Giappone o in Germania. C'è questo amico mio che ha un suo amico che ha una grossa industria di materiale elettronico, di prodotti elettronici di qualunque genere, una grossa industria con diversi dipendenti. Fatti conto, c'ha solo un'ottantina di ingegneri solo alle sue dipendenze, oltre tutto il personale che sono centinaia di persone. Loro prendono il prodotto, diciamo, cosa mi può venire in mente? Un videoregistratore, questo videoregistratore è un videoregistratore, non esistono più neanche, un DVD, un lettore DVD. Loro lo prendono per dire senza la mascherina, questo prodotto arriva con i container a Rotterdam, ci sono delle navi apposite, officina, dove prendono dentro Rotterdam, prendono e ci mettono la mascherina e mettono Made in Europe a quel punto lì. Siccome in coso in Olanda i dati sono completamente diversi dal resto d'Europa, aggirano anche il coso fiscale e alla fine il suo prodotto è come che sia stato prodotto in coso in Olanda, ma in Olanda invece non vedranno, è stato messo soltanto un tappo, un potenziometro, qualunque cosa, e questi aggirano l'ostacolo del contingentamento con questo sistema. Sì, ma fate i conti, cioè, ma ti vogliono prendere in giro, tanto poi alla fine è tutto Samsung, capito? Ma questi della Lidl, che io leggo quei prodotti, come si chiamano, tutti quegli attrezzi, che sono belli, fatti bene, noi ne prendiamo tanti, spesso ne abbiamo comprato, non mi ricordo quale, Parkside, così si chiama, c'è scritto proprio Made in Germany, e secondo me il giro è la stessa cosa, perché non è possibile fare quei prezzi di un prodotto costruito in Germania, c'è sempre qualche giro vizioso, loro magari mettono le ultime due viti, lo chiudono, e tutto il resto è costruito in Cina. Sì, capa, ma grazie al pomodoro concentrato, praticamente funziona così, è quasi lo stesso. In Cina producono, perché in Cina, cioè, non è che producano male, è tutto lo spazio che hanno, e riescono anche a fare alimentari di qualità, non è che sia tutto scarso. E allora producono questo quadro concentrato di pomodoro, in pratica, e lo inviano stoccato in Italia, arriva in Italia, e per essere made in Italy, per legge, deve fare 3 passaggi in, in Italia. E due cosa fanno? Diventano acqua la prima volta, acqua la seconda volta, così diventa un doppio concentrato di pomodoro, e dopodiché lo imballano, terzo passaggio, dunque può essere made in Italy. Però il pomodoro è arrivato dalla Cina. Pensa tu. E tutto il sud è così luglio, non l'hai visto, cacchio? Tutto lo scandalo del luglio, dell'olio d'oliva. Non ne parliamo. Vai, Erika, batte il mic. Elia, riprendo io, sì, già lo so questa storia. L'avevo vista anche, tipo che mi ero comprato un temperino della Giotto che diceva che era made in Germany, e poi ho guardato bene e c'era, e alla fine era tutto cinese, va. Cappa, non avevamo più voglia di fare niente. L'Embraco era una bella azienda e ho avuto in mano un sacco di compressori, anche perché non faceva solo quelli commerciali da zero. Ne aveva di vari tipi, varie qualità, eccetera. E adesso è un capannone vuoto. E pensa che l'azienda, vabbè, faceva sfuggi, c'era il giornale questa storia, c'era l'azienda che avrebbe dovuto impiegare non so quanti operai dentro per riconvertire la produzione e lavorare per Whirlpool, e invece questi ci hanno preso i soldi dallo Stato, siamo comprati le macchine di lusso, hanno sputato un po' in controcorrente e l'azienda è ancora vuota. Cioè così non riusciamo più a produrre niente, non dobbiamo produrre niente, deve fare tutto la Cina adesso, va bene, la Corea. Ma adesso c'è uno Stato che sta facendo le scarpe alla Cina, allora la Cina ha fatto le scarpe al Giappone, adesso c'è il Vietnam e l'India, soprattutto stanno facendo le scarpe a livello di manodopera, di costo di manodopera alla Cina. Infatti è molto preoccupata la Cina di questo fatto qua, perché molte case costruttrici occidentali si stanno andando, stanno puntando su mercati ancora più poveri, il mercato indiano e il mercato vietnamita, dove i prezzi sono ancora più bassi. Iniziato il primo passaggio era made in Japan, che ha ammazzato tutto il mercato europeo e americano, poi made in Corea, che ha ammazzato un po' il Giappone, poi è arrivato la Cina, made in Cina ha ammazzato il coso, poi è arrivato, adesso sta entrando il Vietnam e l'India, e si è notato sempre di più la percentuale di questi prodotti made in India e made in coso, in Vietnam. Ma è normale, vabbè, sono cicli storici, no? Ma tu ti renderai conto che la nostra generazione ha visto questa cosa, anzi la generazione passata, diciamo, quelli che hanno 20 anni meno di noi, 25 anni meno di noi, hanno visto la Cina, anche se ti posso dire che mio padre da ventenne ha avuto un professore che è all'università, il professor Furesu, che era un matto, un ingegnere nucleare, per aprire. Ha avuto un professore che un giorno ha iniziato la lezione dicendo: beh, siete pronti? Fra un po' avremo tutti i cinesi a fianco, perché la Cina ci invaderà. Pensa quanto è la lungimirante questa. Ma adesso noi stiamo vedendo l'inizio di questa rivoluzione per quanto riguarda l'India, per esempio, no? E la vedranno meglio i nostri figli, che si troveranno tutta roba fatta lì. Ma ti rendi conto cosa c'era quando inizierà l'Africa a fare questo? L'Africa è il paese più ricco, è il continente più ricco in assoluto al mondo, ha di tutto, capito? Quando l'Africa inizierà a produrre, a fare, metterà tutti a zero. Saremo noi che cercheremo di prenderci un canotto per andare in Africa, te lo dico io. È possibile. Purtroppo l'Africa ci sono troppe dittature, a parte il Sudafrica, diciamo il paese più occidentalizzato, gli altri sono tutti dittature o pseudo-dittature dove non esiste lo Stato, ci sono guerre civili, eccetera. Perché sono dei paesi ricchissimi, oltre che dei materiali, come si chiama, di riserve petrolifere, che ormai il petrolio è superato, parliamo di cose molto più importanti, da rame, diamanti, oro, eccetera, eccetera. Potrebbero diventare i paesi arabi dell'Africa, per dire, con i soldi che potrebbero. Purtroppo di lì stanno già entrando in mano ai cinesi, che stanno entrando alla grande, stanno comprando da tutte le parti, c'erano già i francesi e adesso poi i cinesi stanno soppiantando a tutti, e ce ne sono accorti di questo discorso che stai dicendo tu diversi anni fa, e stanno cercando di entrare alla grande. Scusate un attimo. Io fatemi un piacere, voi non scappate, mi faccio un panino in bottiglia veloce quanto la luce, non scappate, ci metto 5 minuti. veloce, sono già partiti 4.59, 4.58, 4.58, muoviti. Mi capi, mastica bene, sennò sto facendo il traverso a cena, No, no, lo mangio qui, lo porto, lo preparo e lo porto qui. Dai, mangia insieme agli altri, mangia tranquillo che già non ci spostiamo, se posto di 5, sono 10 minuti, non è un problema, ne siamo qui lo stesso, però cena. Certo, stavo scherzando, naturalmente, mangia con calma, non ti preoccupare di cadere, soprattutto non vorrei che tuo padre e tua madre ci pigliano, dice, ma guarda questi qua, mi tengono fermo a mio figlio. Manco a mangiare. No, ma ancora non è per cena, devo solo, mi faccio un panino così perché ho fame. A cenare è ancora presto, sono solo le 21 e mezza, si cena alle 22 e mezza, ed è ancora presto. Ah, allora puntino, va bene, mi capi, dai, fatti il panino e vieni a mangiartelo con noi. Però io non ti faccio compagnia, io il panino non me lo mangio, ho cenato e sono a posto così. Guarda, io mi sono preso, detto a Riccardino, e ho preso una teglia di fene, l'ho anche divisa perché da solo me la mangiavo, e nonostante tutto, da solo eravamo diversi, l'ha data a casa di mio padre, e mia sorella gli ha data a me, l'ha data a loro, e me ne sta uscendo dal naso la fene, per cui adesso di mangiare non ne ho proprio voglia. Salsiccia e cipolle, buonissima. Ehi, dove l'hai presa? Oh, vicino, no, già non so, non ti posso dire anche buona, non sarà la numero uno a Sassari, che ce ne sono molto meglio, però ti posso dire è buona. Perché ne ho voglia. Ad Algiano lì in piazzetta Termonacci. No, giù in via Catalocchino io vado. Ah, ho capito. Potevo mi sapere la parte della Termonacci, magari la stessa. Oggiano, quello è il figlio, quello è Daniele, il figlio di Oggiano, quello storico che c'è in via Catalocchino. Sì, a capo. Beh, in compagnia una volta l'abbiamo messo in un carasso qua, ma ci siamo troppo divertiti, perché noi eravamo una compagnia veramente di burloni. E alla fine abbiamo coinvolto tutta la sala e è stata una serata mitica, epica, però siccome ero io che avevo prenotato, a un certo punto della serata il cameriere, divertito anche lui, che stava ridendo come un matto, mi ha fatto ascolta, lì a tutti gli amici che gli ha fatto bene, facciamo un giro di bevuta così dalla casa, però tu mi devi promettere una cosa, che non ci venite più. Ah, quello era giusto. Dove, ma anche che fai nelle negozie di ciao Giano, tanti anni fa. Praticamente abbiamo iniziato, una mia amica ha iniziato a lanciare un'oliva a un tipo che gli piaceva da un'altra compagnia, quello a posto di mangiarsi l'oliva si è mangiato la foglia e gli ha tirato una patatina, una cosa del genere, una rotella di salsiccia, così. E allora via, siccome c'erano molte piste con le olive, si è creata una battaglia di olive che ha toccato il tavolo a fianco dove c'era una famiglia, tutti seri composti, no? Qua e là. Il bambino si gira e fa al padre, papà, la patatina è un'oliva, ma neanche per scherzo, mentre ha detto questo si è fatto un'oliva a lui, si è incazzato perché anche lui si deve tirare le olive. Avete distrutto il locale. No, vabbè, a me era capitato in altre, per altre cose, e non proprio olive, ma altri generi di cose, era pure, siamo andati in questo ristorante, ma non qua fuori, all'estero, e si è iniziato uno tanta schizzando col cucchiaio facendo tipo cosa, tipo catapulta, era lì che un macello di tutti i colori. Posso immaginare, ma poi alla fine tutta la sala, quei tavoli più lontani, capito, che lanciavano pezzi di botti di pizza, tappi di bottiglie, cioè di tutto, c'erano tutti che stavano lanciando tutto, ha detto adesso fermi tutti, fermi che faccio canestro del vostro tavolo, cosa vuoi fare, prendi i bicchieri, scatti tutti insieme, capito, cioè, non so quanti eravamo, c'era la sala piena. Un casino nero, ma col purè però avete fatto tanto, muri. No, guarda, uno schifo, che poi sporca il purè, sopra le tovaglie ti si incolla tutto, ma poi infatti ci hanno un po' guardato male. Ehi, ma tu immaginati che tipo ha fatto solo, io ti ho provato bene, ti ho provato bene, però tu mi prometti per favore che la prossima volta ci diete un altro locale, un certo momento di cartetta, ma stava dicendo anche lui, perché vedevo le stesse, c'è cazzo un casino. Sarà per pulire tutto poi alla fine quando è. Però chi c'era il giorno in pizzeria di Daugiano si è tutto divertito, ma ce n'è. Sarà tornato apposta per cercare di fare qualche altra battaglia, secondo me. ma lo immagino. Infatti abbiamo dovuto prendere pizzeria. Cioè gli ho detto che è tonda i miei, gli ho detto ragazzi, se volete andare voi da soli io non ci vengo. No, no, neanche tu. No, io non ci vengo perché ho promesso. Ma non ci passa a sapere che ti ha detto questo. Ehi, guarda, c'è qualcosa lì. Qui ti conto cosa abbiamo combinato. E via. Tocca andare a pizza pizza, un paio di volte, prenderci la pizza così a mangiarsi la cartone e poi cercheremo un altro posto dove questa volta non ordiniamo neanche una pizza con le olive, per favore. Pizza bianca, così non sbagli, e non sporchi niente. E allora, anche se eravamo così infervoriti a quella cosa, oh, io non penso che nessuno si sia dimenticata quella storia. Veramente, una serata veramente tramba. Anche la pizza è aggregazione, così è. E comunque, tra una cosa e l'altra, posso dirti che per quanto riguarda la qualità della pizza, stiamo parlando